Sogno, in corso, in fondo, presenza, lenta, in una stanza, continua, a vagare inutile, e tutte quelle sere nere, in fondo non ci speravi, e in fondo non capivi quelle soluzioni da trovare, e in fondo cercavi qualcosa di migliore, la presenza inconsueta in una stanza, di tutti quei fantasmi, della mente e le speranze, e in fondo lentamente cercavi di non vagare, e in fondo al cuore poi speravi di capire. Io scivolo lentamente in tutte queste nostre disfinquenze, in fondo tutto io speravo in una diligenza che mi portasse al cielo. Mistero lento è tutto quanto io sogno, e dentro un sogno trovo tutto il mio lamento, e tutte quelle volte che volevo capire, essere un grido al cielo urlato per dire, e tutte quelle volte che sono stato soltanto a concerto di note rotte, e tutte quelle volte il cui cuore non batteva, non tornava a capire. Di tutte quelle volte quella sera, e in fondo rimaneva tutta una chimera di note rotte, non cercavo e capivo soltanto che il mio fine era infiammato in costantemente bisogno. Lentamente scivolava e il rumore della gente tornava, e in fondo io non capivo quelle volte rotte. Microfoni nell'aria a sperare, microfoni a dire il bisogno che non c'era, mentre io avevo soltanto un canto al cielo, mentre io avevo il mio mistero che voleva urlare, voleva volare, voleva essere il cielo di una notte stellata, mancata presenza nel mondo, un cammino rotto, rotto dall'abisso degli inganni, rotto dall'ignoranza delle genti, le menti continuano a vagare, il sogno continua a sperare in qualcosa di migliore. Tornano sempre gli inganni, tornano sempre qualcosa che non volevi nella mente, e in fondo cercavi soltanto di capire ciò che agire era. Forse la speranza non è per i bastardi, forse in questa stanza mancano i petardi necessari per far sì di tante genti, forse le menti confondono i passi miei e i tuoi, i passi suoi nei miei, e in fondo cercavamo solo di capire un modo migliore per vivere, un modo in cui il mondo potesse non andare a fondo, ma